E alle 17.54 abbiamo in diretta uno dei redattori di questa radio che si occupa dello spazio, che si chiama Maldestra, che già dal nome, no? Abbiamo detto abbastanza, e uno degli osservatori sulle destre italiane e non. Buonasera. Buonasera a voi. Eccoci. Allora, se ne è parlato tanto in questi giorni, Torino, Firenze non sono altro che i due casi che lasciano un po', che non spostano di tanto quelle che sono le considerazioni che facciamo come compagni e come compagni antirazzisti e via dicendo di questo paese. Questo è un paese che mostra delle intolleranze molto forti, e spesso e volentieri queste intolleranze non sono un patrimonio soltanto di quei territori che dove magari le forze di destra sono più forti. Non è un caso che sia successo a Torino. Torino non è una città particolarmente di destra, non è un caso che sia successo a Firenze, che anche a Firenze non è una città dove le destre storicamente si siano mosse. Le destre in Italia ne esistono molteplici, alcune hanno governato e tuttora governano. Ce n'è un ampio spettro. Limitarsi a parlare di questo o di quell'altro, spesso e volentieri si fa l'errore più forte, l'errore più grosso. Allora proviamo a fare un attimino il punto della situazione anche insieme. Mi senti? Sì. Eccoci, dimmi. No, il punto lo faccio io. No, facciamolo insieme appunto. No. Ma diciamo la prima lettura di queste vicende, tra loro ovviamente diverse, che si può ipotizzare, diciamo intanto può tener conto dello scenario che c'è intorno a noi. Come tu giustamente hai appena specificato, la situazione italiana è una situazione abbastanza particolare rispetto alla presenza, diciamo, di varie forme di culture politiche di destra. L'elemento più particolare, più strano in qualche modo del contesto italiano rispetto a quello del contesto di altri paesi, è che in questo ultimo quindicennio, ventennio vi è stato un fortissimo passaggio di comunicazione, di rapporti politici, di collaborazione, di sostegno tra la destra cosiddetta istituzionale, le istituzioni nazionali, locali, territoriali, e alcuni gruppi di quella che invece con tutta evidenza non si può che definire come destra radicale. In questo contesto, all'interno di un humus spesso comune che attiene al fatto di una base comune che viene dal neofascismo, che viene dall'MSI, che poi si è diviso in vari rivoli, eccetera, eccetera, ma anche dalla tematizzazione in senso xenofobo, razzista, della presenza degli immigrati, dei temi della sicurezza, diciamo si è costruito uno spazio di senso che in questo tipo non esiste, non trova pari nel resto d'Europa, cioè che vi fosse una continua commistione tra le cose che venivano dette all'interno diciamo delle forme rappresentative delle istituzioni, spesso dai più alti vertici delle istituzioni, e quello che poi mettevano in campo diciamo le bande squadristiche in giro per il territorio. Per spiegarmi, insomma, credo che tutti abbiano molto chiaro che cosa è accaduto in questi ultimi anni. C'erano ministri che dicevano dobbiamo sparare i barconi degli immigrati, e c'erano bande di giovani che se la prendevano con gli immigrati piuttosto che con i rom nella periferia delle grandi città. C'erano politici che dicevano che bisognava smetterla con la tolleranza, la famosa l'evocazione della tolleranza zero, dai lavavetri ai rom, chi chiedeva l'elemosina, e c'erano gruppi che aggredivano gli stessi soggetti. Non è che questo significa che ogni cosa ha una causa-effetto così immediata, ma che un clima in cui socialmente diventa dicibile quello che un tempo magari non era così facilmente dicibile, è chiaro che può anche facilitare che qualcuno sano di mente, ma anche qualcuno, diciamo, che non tutte le rotelle ce l'ha, passi all'azione violenta, all'azione armata, come è accaduto a Firenze, non tanto e non solo perché in qualche modo c'è quella cultura politica che caratterizza sempre la destra radicale, ma perché in questa fase quella cultura politica in qualche modo assume la forma, attraverso la mediazione istituzionale, del senso comune, diventa accettabile, e non c'è niente di più facile che ci sia qualcuno che anche con un gesto isolato, anche con un gesto magari frutto della sua particolare stato mentale, si senta in qualche modo invece di farsi interprete di questo elemento comunitario, di questo senso comune, di un'idea in qualche modo diffusa intorno a sé. Ecco, questo mi sembra un quadro che, pur tra le evidenti differenze, tiene insieme in qualche modo, credo, le due vicende, quella di Torino e quella di Firenze. Tra l'altro, appunto, continuando appunto l'analisi, abbiamo sempre sostenuto che le formazioni della destra radicale in Italia sono sempre rimaste marginali, proprio perché c'erano i cosiddetti partiti della destra istituzionale che spesso e volentieri riprendevano, comunque facevano propri quei contenuti, li rilanciavano in maniera spesso e volentieri anche più forte. Se guardiamo quello che è successo a Torino, se andiamo a vedere quello che è successo alle Vallette, ci sono un paio di elementi che saltano agli occhi. Il primo, che è successo in una città amministrata da un governo di centrosinistra da parecchi e parecchi anni, una manifestazione a cui poi, io leggendo in rete alcune interviste, partecipava anche la presidente del municipio, se non sbaglio, che è del PD stesso, che ha partecipato a quella manifestazione, lei dice, per capire cosa stava succedendo. Tra l'altro, una manifestazione che era ampiamente prevedibile in cosa sarebbe sfociato, visto che il volantino di convocazione lo diceva abbastanza chiaramente, proprio perché poi l'humus stesso di questa città, delle città italiane, metropoli e non, è abbastanza simile. E salta anche agli occhi il fatto che poi le dichiarazioni, mi viene in mente quella della stampa che chiedeva scusa a se stessa e ai propri lettori, o anche di Fassino stesso, nessuno poi ci ha raccontato il giorno dopo, i giorni successivi, che fine avesse fatto la comunità rom colpita. Tutti si facevano indignati, carichi, no, dell'indignazione per l'evento gravissimo, però poi le risposte sul piano pratico venivano a mancare. Però allo stesso tempo sono anni che anche la radio lo fa spesso, che denunciano quelle che sono poi le collusioni tra le destre radicali, soprattutto, spesso e volentieri, soprattutto nel nord Italia, con le varie amministrazioni locali e vari esponenti della destra, chiamiamola così, istituzionale. Abbiamo esempi a Milano, Verona forse è il laboratorio più particolare e più interessante, che abbiamo raccontato spesso e volentieri, se non sbaglio. Sì, è chiaro, cioè, ci sono anche delle realtà, appunto, come quella di Verona, in cui non solo c'è questa commissione continua, ma c'è addirittura l'elevare a livello istituzionale alcune delle figure. Lì il caso emblematico era quello di Andrea Miglioranzi, insomma, il cantante di un gruppo OI di tendenze esplicitamente fasciste e naziste, arrivato direttamente in consiglio comunale attraverso la lista e il listino del sindaco Tosi. Una commissione che nell'arco degli ultimi anni a Verona ha prodotto che elementi della destra radicale finissero a fare gli assessori alle politiche giovanili. Cioè, è chiaro che in questo contesto se ne sono visti di tutti i colori. Prima ancora si era vista una lunga presenza di Marzio Tremaglia, Alleanza Nazionale, scomparso in seguito, assessore alla cultura della regione Lombardia, che negli anni 90 aveva finanziato più o meno ogni gruppo della destra radicale, aveva legittimato iniziative di tutti i tipi, insomma, che da quelle che parlavano degli Hobbit fino a quelle che parlavano dei volontari della SS italiana. Cioè, il fatto che in qualche modo si sia proceduto a una normalizzazione e addirittura a un elevare a ruolo istituzionale, a dare spazio nelle istituzioni a queste figure della destra radicale. Chiaramente è questo lo scenario che fa da sfondo a quanto è accaduto e a quanto si è visto. Io credo che però forse varrebbe anche la pena a questo punto interrogarci, non so se l'avete fatto fino a questo momento, su uno scenario ulteriore, cioè se questa è stata la condizione che ha in qualche modo banalizzato la presenza di gruppi della destra radicale, le loro ideologie, cioè da un lato, diciamo, il fatto che anche settori del centro-sinistra, in virtù dell'evocazione delle politiche securitarie, della legge ordine, addirittura della tolleranza zero, ricordiamoci che a Firenze, insomma, la battaglia sui lavavetri la fece il centro-sinistra, insomma. Furono i primi a lanciare proprio, no? La Firenze deturpata dai lavavetri. No, cioè con questo bizzarro, diciamo, filo che metteva insieme il problema, insomma, di assessori del comune di Firenze, che sembrava indicassero nella presenza dei lavavetri che rovinavano le giornate, che li beccava ai semafori della città, come elemento più significativo dell'ansia di sicurezza della città. Evidentemente è un po' paradossale che i lavavetri potessero rappresentare una tale minaccia. Un filo che legava queste cose al delirio di Oriana Fallaci, che nel all'indomani dell'11 settembre descriveva orgie di musulmani accampati che facevano i loro bisogni nei palazzi storici piuttosto che nelle chiese del centro storico di Firenze. In questo clima è chiaro che si sono rese possibili molte cose e che contemporaneamente la destra ha costruito quel volto plurale che dicevamo prima, legittimando pienamente, se non riutilizzando, addirittura il personale politico dell'estrema destra. Insomma, anche a Roma lo sappiamo bene, personaggi che si sono fatti le ossa nei gruppi della destra radicale con dei precedenti penali, insomma, basti pensare al signor Andrini, finito a fare il dirigente dell'AMA, non si sa bene per quali meriti, grazie ad Alemanno. Insomma, anche qui abbiamo visto che cosa ha prodotto questo contesto. Quello che io proponevo era anche di fare un salto, diciamo, a partire dalle vicende di questi ultimi giorni, in quello che può essere uno scenario ulteriore, nel senso, che cosa accade in un paese in cui c'è stata questa legittimazione da una parte in termini politico-sociali del tema della sicurezza, diciamo della incompatibilità di alcuni cittadini, di alcune popolazioni, di alcune culture a vivere tra di noi e insieme a noi, nelle nostre metropoli in particolare, e dopo che una destra di questo tipo, più populista, sicuramente con pulsioni estremiste nel suo seno, non soltanto diciamo, capace di intessere rapporti con i gruppi estremisti, ma estremista di suo, insomma, da Berlusconi a Bossi, passando per i cosiddetti post-fascisti, che cosa accade in un paese del genere dopo che questa tutela, però in qualche modo esercitata dalla destra di governo sulla destra radicale, finisce come evidentemente non potrà che finire, in questo annuncio, questa epifania del berlusconismo che stiamo vivendo oggi. Cioè, che cosa farà il neofascismo e questi gruppi cresciuti tra nostalgie mussoliniane e invece, diciamo, appello xenofobo tutto attuale in questo ultimo quindicennio, in questi ultimi vent'anni, nel momento in cui la tutela politica della destra istituzionale si perderà, e si perderà sia sul piano nazionale, come nei fatti con la caduta del governo Berlusconi è già accaduto, ma si potrà perdere, che ne so, a Roma con un'altra amministrazione, nel Veneto, molte regioni del nord, del momento in cui cadesse l'alleanza tra il PDL e la Lega, che è stata spesso il luogo in cui, vedi Verona, i neofascisti o l'estrema destra ha messo piede anche nelle istituzioni locali. È chiaro che lo scenario potrebbe anche qui avere degli elementi di preoccupazione, perché uno dei terreni su cui questi gruppi sembrano destinati a tornare è in qualche modo quello della strada, no? Cioè quello di riprendere un'agitazione che non ha a quel punto più nulla di politico, ma ritorna a essere nuovamente provocatoria, violenta e aggressiva. È un'ipotesi che propongo, diciamo, agli ascoltatori e a voi che siete in studio, perché probabilmente, ripeto, non necessariamente è un causa-effetto con quanto si è visto a Torino e Firenze, ma forse ci può dire qualcosa dei possibili scenari a venire. C'è anche un aspetto di radicamento nel territorio di questi gruppi della destra radicale, il territorio che è stato abbandonato dalla presenza delle organizzazioni di sinistra e anche del movimento, e quindi all'interno di questo territorio probabilmente questa destra, che perde la sua sponda istituzionale, si radicalizzerà ancora di più. E poi questo messaggio identitario che in qualche maniera è un po' all'opposto rispetto poi alla realtà di un paese sfilacciato, fiaccato, che nella realtà dei fatti non ha un'identità sociale vera e propria, e soprattutto non ha un'identità nazionale mai ben definita. Eppure, nonostante questo discorso identitario attecchisce. Anche in maniera abbastanza ridicola poi attecchisce, sì. Perché poi sono gli stessi partiti o le stesse forze di governo che spesso e volentieri non si ritrovano su alcuni argomenti. Io ho la sensazione, poi correggimi se non sei d'accordo, che questo è un paese in cui tendenzialmente si tende a spoliticizzare tutto. E questo è avvenuto anche in questi giorni, si è ridotto, no, a semplice e becera intolleranza ultras quello che è successo a Torino, come se la presenza di elementi da stadio possa aver determinato quello che è successo, mentre le 500 persone che erano comunque da corollario e che si erano mosse attraverso quei temi non fossero altrettanto responsabili. Si è parlato di Firenze come il gesto di un folle che viveva isolato e via dicendo, quando poi questo folle che viveva caso isolato, apparteneva a un'organizzazione di destra, in questo caso Casa Pound. Aveva scritto recentemente un libro firmato da un giornalista vice direttore del giornale Radio Rai. Nessuno questo l'ha detto, l'hanno tutti quanti comunque in qualche modo celato, ma sono gli stessi contenuti che qualche anno fa l'abbiamo visto attraverso, mi viene in mente, l'omicidio Biagetti o l'omicidio di Dax, in cui si riduceva al tutto a risse da strada, come se non avesse comunque un humus politico, anche se le persone che in quel caso avevano commesso l'omicidio non erano legate a un'organizzazione politica. Sì, diciamo che penso il caso di Firenze sembra situarsi all'incrocio, per così dire, di più elementi, nel senso che da un lato è facile evocare quella figura, insomma, che alcuni studiosi dell'estrema destra, soprattutto a partire dagli elementi, dagli esempi statunitensi, penso alla strage di Oklahoma City del 1995, ma anche alla strage di Oslo della scorsa estate, compiuta da un cittadino